Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge La Luna e i Falò, di Cesare Pavese. Introduzione di Roberto Galaverni. Buongiorno a tutti, sono Roberto Galaverni e mi trovo qui per introdurre la lettura e per voi l'ascolto della Luna e i Falò di Cesare Pavese, forse il suo romanzo più noto ed amato, e anche l'ultimo, scritto nell'autunno del 49 e pubblicato nel 1950. A leggerlo sarà Remo Girone, quindi un lettore d'eccezione. Vi dicevo, un romanzo molto noto di Pavese, perché rappresenta un po' la summa di tutto il suo percorso di scrittore, narratore, intellettuale. Forse anche il romanzo più compiuto, in cui le tematiche principali, le situazioni esistenziali, psicologiche, le figure, ecco, anche ossessive della sua opera raggiungono il massimo grado di fusione, di compiutezza e di realizzazione. Con una teutologia forse si potrebbe addirittura dire che è il romanzo più pavesiano. Un romanzo che ebbe subito un notevole successo, vinse ad esempio il premio Strega nel 1950, che poi è l'anno in cui Pavese si tolse la vita. Il romanzo è la storia di un ritorno. Al fondo del romanzo c'è un grande archetipo narrativo, che è appunto quello del nostos omerico, il ritorno, e dunque, lo diceva anche Pavese nel Mestiere di vivere, la figura di Ulisse. Il protagonista del romanzo, il cui pseudonimo è Anguilla, anzi è il nomignolo che gli era stato affibbiato da chi lo aveva allevato, lui è un bastardo, il bastardo è proprio la parola che torna nel romanzo. Questo Anguilla è una sorta di novello Ulisse. Fa ritorno dopo un ampio periplo della sua vita che lo aveva portato in America a soggiornarvi per lunghi anni, nei territori di origine, che sono poi quelli delle Langhe, le stesse Langhe attorno a Santo Stefano a Belvo, dove Pavese poi era nato e aveva trascorso dei momenti fondativi della propria infanzia e quindi anche del suo immaginario poetico e di scrittore. Ritorno, che per esempio viene in mente, è una figura centrale anche di importanti romanzi contemporanei, insomma del secondo Novecento italiano. Mi viene in mente per esempio La Tregua di Primo Levi, che racconta del ritorno da Auschwitz, oppure anche uno straordinario ritorno è narrato in Orcinus Orca di D'Arrigo, dove c'è questo soldato, Andrea Cambria, del Regio Esercito, che ritorna attraverso appunto delle varie peripezie nella natale Sicilia. Al fondo della Luna e i Falò è una ricerca di identità. In esergo al libro, Pavese pose questa celebre definizione che viene da Lear di Shakespeare: ripeness is all, la maturità è tutto, e appunto il romanzo può essere concepito come la ricerca di una maturità. Ricerca di identità, della propria carta di identità, della propria origine, del cosmo, insomma, che ci può contraddistinguere, ma metterei più la parola su ricerca che su identità, in quanto si tratta proprio del movimento dentro queste coordinate, che sono le coordinate poi che attraversano un po' tutta l'opera pavesiana: le colline, le vigne, i campi, i poderi, certe misere case contadine. Tra l'altro la ricerca proprio di identità si configura anche come ricerca di una casa di provenienza. Casa è parola che nell'universo narrativo di Pavese ha una straordinaria importanza. Qualche anno prima della Luna e i Falò, Pavese aveva scritto per esempio La casa in collina, un altro suo grande ed eccellente romanzo, dove la casa si riempie di una multipla simbologia e stratificazione di significati, tra riparo, difesa e anche vigliaccheria, semmai rispetto con consapevole, paura della storia, della responsabilità e dell'impegno, sia pubblico sia privato, sia come sprofondamento e contatto con quello che Pavese chiamava il mito, l'identità originaria, sempre un passo poi più in là rispetto al luogo in cui ci si trova. Questa dinamica si configura anche nel titolo stesso del libro, La Luna e i Falò. Da una parte la ciclicità dei raccolti, delle cose che tornano, si vorrebbero tornassero sempre immutate e tali le si vorrebbero ritrovare, ma anche dall'altro il segno della storia, la ferita, lo sfregio, c'era stata intanto la guerra civile che entra, come ascolterete, nel romanzo. Il tempo, insomma, che consuma e disperde piuttosto che far ritrovare. Un'ultima cosa, il racconto è narrato in prima persona, come tutti forse i romanzi più riusciti di Pavese, ma questa volta il protagonista, piuttosto che un intellettuale, molto vicino così biograficamente anche Pavese, come per esempio nel carcere o nella casa in collina, è invece un protagonista più basico, selvaggio, selvatico se volete, primitivo. Non è un intellettuale, ma è un bastardo, un ragazzo che è cresciuto senza una famiglia, senza un'origine, senza studi particolarmente elevati. Ecco, direi che il ritmo di questo racconto si dà proprio nell'alternanza tra luna e falò, tra ritrovamento e perdita, tra identità e smarrimento. Vi auguro buon ascolto e noi ci risentiamo a Lettura Ultimata per qualche osservazione conclusiva. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Non c'è da queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o, perché no, da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono. Ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Se sono cresciuto in questo paese, devo dir grazie alla Virgilia, a Padrino, tutta gente che non c'è più, anche se loro mi hanno preso e allevato soltanto perché l'ospedale di Alessandria gli passava la mesata. Su queste colline, 40 anni fa, c'erano dei dannati che per vedere uno scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale, oltre ai figli che avevano già. C'era chi prendeva una bambina per averci poi la servetta e comandarla meglio. La Virgilia volle me, perché di figlie ne aveva già due, e quando fossi un po' cresciuto, speravano di aggiustarsi in una grossa cascina e lavorare tutti quanti e star bene. Padrino aveva allora il casotto di Gaminella, due stanze e una stalla, la capra e quella riva dei noccioli. Io venni su con le ragazze, ci rubavamo la polenta, dormivamo sullo stesso saccone. Angiolina, la maggiore, aveva un anno più di me, e soltanto a 10 anni, nell'inverno quando morì la Virgilia, seppi per caso che non ero suo fratello. Da quell'inverno, Angiolina giudiziosa dovette smettere di girare con noi per la riva e per i boschi, accudiva la casa, faceva il pane e le robiole, andava lei a ritirare in municipio il mio scudo. Io mi vantavo con Giulia di valere 5 lire, le dicevo che lei non fruttava niente e chiedevo a padrino perché non prendevamo altri bastardi. Adesso sapevo che eravamo dei miserabili, perché soltanto i miserabili allevano i bastardi dell'ospedale. Prima, quando correndo a scuola gli altri mi dicevano bastardo, io credevo che fosse un nome, come vigliacco o vagabondo, e rispondevo per le rime. Ma ero già un ragazzo fatto e il municipio non ci pagava più lo scudo, che io ancora non avevo ben capito che non essere figlio di padrino e della Virgilia voleva dire non esser nato in Gaminella, non essere sbucato da sotto i noccioli o dall'orecchio della nostra capra come le ragazze. L'altr'anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gaminella, un versante lungo e ininterrotto di vigne e di rive, un pendio così insensibile che alzando la testa non se ne vede la cima, e in cima, chissà dove, ci sono altre vigne, altri boschi, altri sentieri, era come scorticata dall'inverno, mostrava il nudo della terra e dei tronchi. La vedevo bene nella luce asciutta, digradare gigantesca verso Canelli, dove la nostra valle finisce. Dalla straduccia che segue il Belbo arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al canneto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico storto, la finestretta vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. Ma intorno gli alberi e la terra erano cambiati, la macchia dei noccioli sparita, ridotta una stoppia di meliga. Dalla stalla muggì un bue e nel freddo della sera sentii l'odore del letame. Chi adesso stava nel casotto non era dunque più così pezzente come noi. M'ero sempre aspettato qualcosa di simile, o magari che il casotto fosse crollato. Tante volte m'ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi com'era stato possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire che era tutto finito. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull'aia. Capii lì per lì cosa vuol dire non esser nato in un posto, non averlo nel sangue, non starci già mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto che un cambiamento di colture non importi. Certamente di macchie di noccioli ne restavano sulle colline, potevo ancora ritrovarmici. Io stesso, se di quella riva fossi stato padrone, l'avrei magari roncata e messa a grano. Ma intanto adesso mi faceva l'effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni e poi, quando si trasloca, restano gusci vuoti, disponibili, morti. Meno male che quella sera, voltando le spalle a Gaminella, avevo di fronte la collina del Salto, oltre Belbo, con le creste, coi grandi prati che sparivano sulle cime. E più in basso, anche questa, era tutte vigne spoglie tagliate da rive e le macchie degli alberi, i sentieri, le cascine sparse, erano come li avevo veduti giorno per giorno, anno per anno, seduto sul trave dietro il casotto o sulla spalletta del ponte. Poi, tutti quegli anni fino alla leva, che ero stato servitore alla cascina della Mora nella grassa piana oltre Belbo, e padrino, venduto il casotto di Gaminella, se n'era andato con le figlie a Cossano, tutti quegli anni bastava che alzassi gli occhi dai campi per vedere sotto il cielo le vigne del Salto, e anche queste digradavano verso Canelli, nel senso della ferrata, del fischio del treno che sera e mattina correva lungo il Belbo, facendomi pensare a meraviglie, alle stazioni e alle città. Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Uno gira per mare e per terra, come i giovanotti dei miei tempi andavano sulle feste dei paesi intorno e ballavano, bevevano, si picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l'uva e la si vende a Canelli. Si raccolgono i tartufi e si portano in Alba. C'è Nuto, il mio amico del Salto, che provvede di bigonce e di torchi tutta la valle fino a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo. Da un anno che lo tengo d'occhio e quando posso ci scappo da Genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l'esperienza. Possibile che a 40 anni e con tutto il mondo che ho visto non sappia ancora che cos'è il mio paese? C'è qualcosa che non mi capacita. Qui tutti hanno in mente che sono tornato per comprarmi una casa e mi chiamano l'americano, mi fanno vedere le figlie. Per uno che è partito senza nemmeno averci un nome dovrebbe piacermi. E infatti mi piace. Ma non basta. Mi piace anche Genova. Mi piace sapere che il mondo è rotondo e avere un piede sulle passerelle. Da quando, ragazzo, al cancello della Mora mi appoggiavo al badile e ascoltavo le chiacchiere dei perdigiorno di passaggio sullo stradone, per me le collinette di Canelli sono la porta del mondo. Nuto, che in confronto con me non si è mai allontanato dal Salto, dice che per farcela vivere in questa valle non bisogna mai uscirne. Proprio lui, che da giovanotto è arrivato a suonare il clarino in banda oltre Canelli, fino a Spigno, fino a Ovada, dalla parte dove si leva il sole. Ne parliamo ogni tanto. E lui ride. Quest'estate sono sceso all'albergo dell'Angelo, sulla piazza del paese, dove più nessuno mi conosceva, tanto sono grande e grosso. Neanch'io in paese conoscevo nessuno. Ai miei tempi ci si veniva di rado, si viveva sulla strada, per le rive e nelle aie. Il paese è molto in su nella valle. L'acqua del Belbo passa davanti alla chiesa mezz'ora prima di allargarsi sotto le mie colline. Ero venuto per riposarmi un 15 giorni e capito che è la Madonna d'agosto. Tanto meglio, il va e vieni della gente forestiera, la confusione e il baccano della piazza avrebbero mimetizzato anche un negro. Ho sentito urlare, cantare, giocare al pallone. Col buio, fuochi e mortaretti. Hanno bevuto, sghignazzato, fatto la processione. Tutta la notte, per 3 notti, sulla piazza è andato il ballo e si sentivano le macchine, le cornette, gli schianti dei fucili pneumatici. Stessi rumori, stesso vino, stesse facce di una volta. I ragazzotti che correvano tra le gambe alla gente erano quelli. I fazzolettoni, le coppie di buoi, il profumo, il sudore, le calze delle donne sulle gambe scure erano quelli. E le allegrie, le tragedie, le promesse in riva a Belbo. C'era di nuovo che una volta, coi 4 soldi del mio primo salario in mano, m'ero buttato nella festa, al tiro a segno, sull'altalena. Avevamo fatto piangere le ragazzine dalle trecce e nessuno di noi altri sapeva ancora perché uomini e donne, giovanotti impomatati e figliole superbe, si scontravano, si prendevano, si ridevano in faccia e ballavano insieme. C'era di nuovo che adesso lo sapevo, e quel tempo era passato. Me n'ero andato dalla valle quando appena cominciavo a saperlo. Nuto, che c'era rimasto, Nuto il falegname del salto, il mio complice delle prime fughe a Canelli, aveva poi, per 10 anni, suonato il clarino su tutte le feste, su tutti i balli della vallata. Per lui il mondo era stata una festa continua di 10 anni. Sapeva tutti i bevitori, i saltimbanchi, le allegrie dei paesi.